riepilogo, qua c'è davanti a te. Good evening, 26 Bravo Bravo 26 UK station. Uno sopra l'altro. Hello, hello, this is 26 Bravo Bravo. Guarda, quando è così la propagazione è inutile, non serve a niente perché c'è uno sopra l'altro. No, è impossibile perché parlano, ripeto, stanno arrivando dalla Germania in maniera spaventosa veramente. Vabbè, visto che è già tardi, le 21:15, vabbè, io ti devo salutare e magari riprendiamo l'argomento che è molto vasto, in qualche altro giorno. Mi è sembrato di capire che hai avuto anche dei problemi di configurazione che all'80% dovuti a drive, perché devi guardare sempre cosa montano come chip. Quelli più funzionali credo sia il 28, quindi siamo 28 e non me lo ricordo, comunque RTL 28, diciamo quei processori lì che sono abbastanza gestibili. Sì, vabbè, la mia è molto vecchia, la del 2009, bisogna fare una modifichetta, per cui lasciato perdere. E mi ha dato adesso qua Riccardino, il padre, questa nuova giornata l'ha presa pochissimo tempo fa, addirittura nella etichettata c'è scritto anche il DAB, figurati, per cui è abbastanza nuova, è un po' più grossa del normale, dai, come dimensioni. E ho visto addirittura sale sino a 11 giga, infatti mai successa una cosa del genere. Sì, a 13 ci sale, però poi il discorso è sempre vedere un po' come ci sale, perché se di quelle larga banda purtroppo spesso significa anche la ricezione di tutte le frequenze a destra e a sinistra in alto e basso. Stavamo parlando prima con Michele, e di lì bisogna mettere filtri, e stare attenti con l'amplificazione che sia la più ristretta possibile. E con l'antenne molto molto selettiva. E tutto lì. Sì, lo so, naturalmente bisogna cercare di ottimizzare. Ne ho visto uno, io me ne dovevo acquistare uno, addirittura due inglesi, cioè doppio sintonizzatore, costa intorno ai 130-140 euro più le spedizioni. È veramente carino, non è una chiavetta, è un po' meglio di una chiavetta, una scatoletta un po' più grande di un pacchetto di sigarette, un pacchetto e mezzo di sigarette. E questa nuova, ho visto, ne parlano tutti bene, c'ha doppio sintonizzatore, puoi utilizzare il doppio sintonizzatore in contemporanea, molto carino, ben fatta pure. Ho visto anche aperta, la circuitazione anche, sembra anche di qualità, non è roba di classiche cinesate, quelle da pochi decine di euro. Questa è fatta molto molto bene. Torna chiamando i tedeschi. Sì, però sono anche le cinesate e non cinesate sono state fatte in Cina oramai, quindi c'è poco da scappare. Io ho qua un ricevitore di tutto rispetto, ripeto, però è fatto in Australia dalla Wiener Radio, e devo dire, l'ho acceso avanti ieri ed è sempre formidabile. Quello veramente è un SDR con le, insomma, c'ha un prezzo esagerato, però il lavoro fa sempre. L'Excalibur, poi se te lo vuoi guardare, cerchi Wiener Radio Excalibur, vedi un po'. Ok, ti devo lasciare, ciao Roberto, alle prossime, buona serata. E okay, ciao, è sempre un piacere ascoltarti, dai. Poi quando abbiamo argomenti tecnici c'è sempre qualcosa da ascoltare e da imparare molte volte. Ok, buona carica e buon tutto, dai, ci risentiamo, io tengo un po' acceso qua, vediamo se riesco a fare qualche collegamento, se no anche io vado via. Ok, ciao Gianfra. Ciao, alle prossime, ciao. Ciao, ciao. Adelante, il compagno di Scucci d'Italia che va chiamando. Buona Vicenza, capa. Sì, ti ascolto Vicenza, non ho capito il tuo nome, per cortesia, se vuoi ripetere questo. Prego, prego. Giuseppe, ecco, il mio nome. Siamo tornati dalla provincia di Italia di Bernagno, capa. Prego, prego. Sì, sì, ti sento bene Giuseppe, ultima radio, che condizioni hai di trasmissione? Okay, sto andando con Aitone, una 5 ottavi autocostruita, no, autocostruita, ma autocostruita, un P Ho detto a 30 watt, capa. Prego, prego. È registrato il break, un attimino. No, no, le mie condizioni invece sono anche io un'antenna 5 ottavi, un K440 di apparato con la microfonia 60 e gli sta dando penso una cinquantina di watt anche io in antenna. Okay. Buongiorno, allora, però io sono là, ho un Tanner più 3, un po' di vecchia data, degli anni 70, ecco, 65. Sto andando con quello, spero di riuscire abbastanza bene in modulazione. Comunque, com'è il tempo delle tue zone, capa? No, il tempo è una bellissima giornata, ha fatto tanto caldo. Questi giorni proprio sembriamo anche noi estate, addirittura a certi momenti anche fastidioso. Oggi leggermente più ventilato, però una bellissima giornata. Purtroppo il USB, la propagazione va e viene, Giuseppe. Buongiorno Italia, 13 Oscar Tango 1 Double 4 from Germany calling. Guarda, uno sopra l'altro, guarda, stanno arrivando a fondo scala i segnali tedeschi, oggi c'è una propagazione fuori dal normale, cioè sembrano che siano qua attaccati a me. Italia, 13 Oscar Tango 1 Double 4. Purtroppo qua siete uno sopra l'altro. Avanti Germany, go Germany. Buongiorno di Italia, 13 Oscar Tango 1 Double 4, I stay 60 km south from Berlin. Attention my friend in Germany, do you speak English? Operator name is... My friend, mucho, very, very strong QSB. Okay. I say 60 km south from Berlin, Roger. Your name, please, I don't understand. 1907, Netherlands, Hollanda, calling Zodiac and stand by for any possible contact. The number of the Toro, no manito, the... Quell'area da Toro, no. Se mi manca domanda, forse può andare sul trappello a te. 1907, Netherlands calling for the exit, stand by. Vicenza, purtroppo qua c'è anche Olanda adesso, oltre che la Germania. Ti rilascio, dai, ti lascio, mi sposto un po' perché qua è un problema. Se no. Ciao Giurex, Giuseppe, 7351 a te e a tuo QTH famiglia. Ok, saluti gli amici di Vicenza, c'ho una carissima amica di lì di Vicenza. Tanti saluti. Avanti presto. C'era una sacca di propagazione, coso. Claudio, ti ascolto perfettamente, molto forte, qua arrivano da tutte le parti, c'è una sovrapposizione dietro l'altra. C'era l'amico Giuseppe vicino a Valdagno, mi sembra, avevi sentito, vicino a Vicenza. Avanti Giuseppe, se ci sei, è allucinante oggi, mai visto una cosa del genere. Tutta un'apertura di propagazione che parte dall'Olanda fino ad arrivare giù all'Alta Italia, a Nord Italia. E un bel diapolutto c'è oggi. E beh Marco. Ciao Roberto, comunque io sei lungo, probabilmente dalla finestra del bagno ero troppo a sinistra rispetto all'arco che copriva, ho aspettato, c'avevo il binocolo, c'avevo anche il tracciamento col sito, niente da fare, ma mi rifarò, la prossima volta vado sul tetto, sul terrazzo proprio. Brecco. Avanti Brecco. Avanti a tutti. Salutare, dai. Roberto, buon questo, eccetera, per dirti che con l'antenino sulla finestra, l'amico di dov'era, adesso mi sfugge, mi arrivava a 7.30, e figurati. Ma sono tutti fondo scala, va bene, FM questi apparati danno segnali allucinanti, sono tutti fondo scala, sbatte lo smitter proprio oltre 60. Sì, anche se chiede danni, per quanto motivo, Ah così, l'hai sistemata poi, ci sei riuscito? Sto funzionando un po' così, al momento io vedo il segnale, ma in realtà sono in FM con un altro apparato, perché lì l'FM non ce l'ha, poverina, non c'è l'FM, lei è tutta SSD, capito, gli piatti giusti, sta funzionando un po' così, diciamo che era toppata e adesso quando mi arriva il generatore di segnale senza il filtro, la metto sul banco, ci vorranno 3, 4, 5 giorni più la roba, perché è tutta una estata, gli manca anche la ferrita e anche le bobine. Bella, però a me piace tantissimo. Ok, c'è anche Marco e Claudio Damuros, però mi sa che io sto spingendo un po' troppo, aspetta mi abbasso un pochettino, se no facciamo danno. È cambiato qualcosa da te, quello più lontano? lontano, parliamo di Claudio. Prova a parlare di nuovo. Benissimo, ti ascolto, segnalone allucinante, ma ti stai tirando qualcosa sotto? Eia, figurati, attenuato di 9 più 40, figurati, in FM poi vabbè, qua spingono tantissimo. Avanti Marco, ciao Fabio, comunque ben sentito, dai, se stai andando via ci sentiremo in altre occasioni, ti auguro un buon proseguo di serata, dai. Poi al dopo prendiamo una meia. Niente Marco, niente, va bene, Roberto Lussone. Ma perché così basso? Un controllino, qua attenuato 9,15. Io? Tu attenuato 9,35. Tu sei fondo scala, attenuato fondo scala. Già lo sai poi questi apparati qua, e quando sei in FM vanno sempre a fondo scala. Sì, sì, ma io ti sto guardando in con quello che arrivano in AM dalla stazione, figura. Perciò come misura dovrebbe essere piuttosto attendibile per la stazione. Per l'antenna sulla terrazza, cioè dall'altra parte di casa tua, immediatamente armato. Ottimo riscontro. Fabio, mi senti? Ciao Marco, ha tutto segnalino, eh? Robè, fammi da ponte. Dilli come mai si è passato di segnale 7 e me lo coprono tutti, quasi tutti, dai. E prima era 9. Ma chi 9? Fabio Master. Lui solitamente arrivava a 9, no? Giorni addietro, oggi è 7. 7 di segnale lo sento solo quando non parlano o spagnoli o quello che c'è. È pieno di segnali oggi. Hai sentito Fabio? Non sento. Il dico così. Marco, hai sentito a Fabio? No, no, sono saturato di segnali in FM, tedeschi, spagnoli, c'è un casino nero oggi. Ha detto con che apparato stai uscendo? Il 3009. Solite condizioni da casa, dai. Allora, vabbè, c'è la possibilità di questo apparato qua, perché lui è il controllo della radiazione FM. C'è la possibilità che sia leggermente spostato, tu non lo sai, a che lo arrivo bene, perché magari viene bene di carambola con l'antenna, però magari a lui non arrivo bene. Se sposta per in corso, magari mi trova. Aspettate, c'è anche Claudio da Muro su che stand by. Avanti Claudio. Ma cosa esagerata, guarda, dal nord Europa, dall'Olanda sino all'Italia, nord Italia è tutto aperto, uno sopra l'altro, poi c'è la Spagna, solo che non abbiamo ancora sentito la cosa, la Francia. Vale, aspetta 9.30 e tu non stai parlando, poi entri tu, dà una battuta e torna 9.30, sono attenuato, figurati. Robè, ma non c'è un canale più pulito per riuscire a scambiare due parole, a parlare? Aspettate un attimino qua, e guardo il canale e poi ritorno qua, un secondino, datemi. Ehi Fabio, in mezzo ai segnali. Ma oggi segnaloni e bordate da cannone proprio. Canale 19, più alta, così e siamo lì, 7.5, dai. Allora, canale 19 ha detto Roberto. In AM però andiamo adesso, così c'è anche Claudio. Tutti canale 19 AM. Gatta.